Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Una nuova settimana di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Beh, nuova relativamente, perché già vi ho fatto prendere due pillole. Una ieri e una quest'oggi. Giulio è radiorockfm.com, l'indirizzo di mail a cui scrivere per iscrivervi alla playlist, per vincere biglietti. Ormai quelli dati settimana scorsa sono andati, ci sono nuove date che vi darò in corso di trasmissione, ma serve anche semplicemente per dialogare, sempre che vogliate mantenere il contatto uno a uno, privato, cosa che è ovviamente sempre possibile, anche se le potenzialità di www.myspace.com/eclettica non sono male. Nello scorso weekend mi sono finalmente messo d'impegno e ho scritto quali sarebbero i miei sogni al momento di MySpace, perché è chiaro che l'evoluzione della situazione porterà anche nuovi sogni. Andate lì sopra a scoprirli. Comunque i sogni sono stati scritti anche in lista nera, per far notare che i due ambiti, lista nera e MySpace, comunque hanno senso entrambi di esistere. Vediamo di partire con le parole, perché sono sempre le parole non mie, ma parole di altri, quelle che aprono ogni settimana di Eclettica Serale. E noi, nell'ultima guerra, abbiamo perso un amante. Avevamo un amante, e da quando è cominciata la guerra non lo si trova più, è sparito. Lui è la vecchia Morris di sua nonna. Da allora sono passati già più di 6 mesi e di lui non abbiamo saputo più nulla. Noi diciamo sempre, questo è un paese piccolo, una specie di grande famiglia. Se uno ci si mette può scoprire legami persino tra le persone più lontane. E invece, come se si fosse spalancato un abisso, una persona è scomparsa senza lasciare traccia e tutte le ricerche sono state inutili. Se fossi sicuro che è rimasto ucciso, rinuncerei. Che diritto abbiamo noi di ostinarci per un amante ucciso, quando c'è gente che ha perso tutto quello che aveva di più caro, figli, padri e mariti? Questo era l'incipit dell'amante di Abraham B. Yehoshua. You know what your words meant when your stomach is sick. It's white lies manipulating shit, surges and degrading, making wars out of wars, terror cults are celebrating whites for white. It's a smile on your face that always tried to bow, making right name for cells at the silent alarm, waking up at 4 p.m. struggling to make some sense out of coffee tables, gateways. We got to set the trend. They know what they meant, it's making motherfuckers bounce, getting homeless people into showers, public service to announce, hunting you down, buying new drinks, staying into touch with the stories they bring. Cigarettes will finally get the 5-year-old bills. It's making living out of pleasure and your passionate thrills. I hope my country will stay out of it when they go and hold bystanders. It's a case of make a run or buy a gun, and what do they feel grown? Find a way so we all save the day. Feel grown. Make it mine so the guilt gets to stay. Feel grown. It's a hole with no sense of what's charm. Feel grown. Get it over with and back to what's wrong. Feel grown. It's whatever a person wants then. Feel grown. It's regression and the shit you regret. Feel grown. It's so judged and the tone in one's voice. Feel grown. It's what's seen in some bystander's choice. Yeah, childless might be the only way. weapon we have left. Balloon immune to darts and vague seas of death. Rise to be free of form, accept the coming storm. Reduced to metaphors and slipped inside the secret whore. We play cliche games to soothe the savage beast. And when defeated, we will feast on delusions of domination and parlor tricks. Get to it one day and we can't seem to quit. Getting home from jobs is our only outlet. Eating clocked by the hours is living by facts. Feel the energy escaping when I'm fully intact. It's got to grow with the fighting. What's a war and who is hiding? Make a scene and read the night. Make an enemy but buy him out. All these makeshift boundaries, dusty ducks and hippies. Pocket full of merchandise, living great and good advice for all. The moment. Gran bel disco, non solo gran bel pezzo, ma gran bel disco, l'intero Progress Reform per quanto riguarda gli inglesi di Leeds, per la precisione, I Like Trains, è scritto tutto attaccato, uscito nel mese di settembre per la Tally Tress, casa discografica francese. Invece in apertura un disco italiano, pur pubblicato originariamente in Germania per la Second Recordings, quello di Nuccini, membro dei Giardini di Miro, che si è dato con un punto esclamativo alla carriera solista, e il suo brano ha avuto l'onore di aprire l'intera settimana dell'Ecletica Serale, brano dal titolo Your Father's Head. Vi avevo detto anche di date di concerti ed eccomi qua a confermare quanto anticipato. Ho due date di due venerdì successivi, una è per venerdì 13 e l'altra per venerdì 20, entrambi allo Zero Music Club di Azzano San Paolo Bergamo. La prima per quanto riguarda il concerto di Bugo, il 13, e la seconda il 20, sempre venerdì, per quanto riguarda Marta sui tubi. Il modo per vincere: giulio@radiorockfm.com. You belong to the gang and you say you can't break away, but I'm here with my hands on my claxonato. Tu ha claxonato? Io no. Ha Ah, sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così. Non è possibile. Come no, prova. Fa un po' vedere. Davvero? Visto? Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna... Ma che fa? Scrive. Provi, provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede? Chad Van Galen, una nuova produzione sub pop per l'artista canadese dell'Alberta, di Calgary per la precisione, che ritorna con il suo set di strumenti fatti in casa e elettronica. Chad Van Galen con Scaly Connection, nuovo album per l'etichetta di Seattle già citata, che ci siamo ascoltati proprio con il brano che lo apre, Flower Gardens. Invece ancora qualche giorno per trovare The Crane Wife, quello che sarà il nuovo album dei The Decemberists nei negozi di dischi, e noi ci siamo ascoltati un'anticipazione dal titolo O Valencia. Questi brani ascoltati, invece, per quanto riguarda il brano che state per ascoltarvi, lui è Namosh, artista di origine turca, ma ormai a tutti gli effetti tedesco. Mocha Tongue è il suo disco, uscito da qualche mese, ma visto l'assenza estiva di Eclettica, recuperiamo un po' del tempo perduto dei mancati ascolti di Cold Cream con un ennesimo passaggio in questa nuova stagione. gioco? Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefaldina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Basta, oh sì, mi seguono al commissariato, prego. No, no, no, attenzione. No, ma te ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Che dopo... succede, Paolini? Mia luce, io sono un illuso spettatore che accenna a rincorrerti e sento che c'è. Brucia veloce, come se quel raggio che traspare dalla tua magia vocale riscaldasse le mie idee. Dolce netta musa inattaccabile, non ti scomponi e badi alla sistematicità. Mentre già combatto ogni respiro, dormi morbida, ti adoro, me ne sto seduto qua a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare per potermi ritrovare nella mia stabilità. Ora che ho confuso ogni sentiero trasportandomi nel vero della passionalità, a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare? Quanti mari devo attraversare? A contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. Sei estasi pura, pura. Sei estasi pura. Sei estasi pura. Sei estasi pura. Sei estasi pura. Sassaresi, primo chef del cosmo con Estasi Pura, loro primo disco in assoluto che decidono di non vendere ma di regalare per ringraziare chi va a vedere i loro concerti. È un EP che contiene due tracce e che esce per una sfilza di etichette, capitanate però dalla loro conterranea Desvelos Records. Giulio Caperdoni, che è arrivato alla chiusura della prima parte di Eclettica anche per quanto riguarda questa settimana, nel ricordarvi sia la recente disponibilità del segnale di Rock FM anche via satellite sulla piattaforma di Skies, di Sky, e anche il podcasting, vi lascia con un'anticipazione del nuovo disco in uscita a metà di ottobre, Giant, per gli Herman Dune. Noi ci ascoltiamo I Wish That I Could See You Soon. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon. And when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Go. Now listen. Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon. And if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like birds when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon. Angels, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Go. Angels again. How long till you can see her? And I'm like, well, the sooner the better. Really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. No way to say, and there's nothing I can do. Eclettica. Fine della prima parte.